si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati. Oggi puntata di sabato 27 aprile, caschiamo quindi in mezzo nel ponte tra la festa dei lavoratori del 1° maggio e la festa della liberazione che è passata 2 giorni fa. Oggi dunque è puntata dedicata a tutti quelli che resistono alle cose sbagliate, alle cose ingiuste, alle cose brutte, anche alle cose più strane, come per esempio a un piano regolatore sballato, vedremo. Poi vi ricordo insomma i nostri contatti, siamo su Facebook, si può fare trattino radio 24. Si può fare 24 invece per venirci a cercare su Twitter, io Ale Maurizi, chiocciola Ale Maurizi, insomma. E poi aspettiamo come sempre le vostre segnalazioni, le vostre notizie che arricchiscono il programma. Notizie per esempio come questa riguarda i costi della politica. Insomma, adesso c'è uno tsunami, da tutte le parti si stanno adeguando le amministrazioni comunali. Qua siamo a Lecce, dopo i risparmi che sono stati chiesti ai dipendenti comunali, adesso è arrivato il momento anche di risparmiare qualcosa sugli stipendi del personale politico. Allora, tagli del 10% alla giunta guidata da Paolo Perrone. I risparmi dovrebbero essere 120.000 euro. I dipendenti comunali sono un po' arrabbiati perché loro hanno invece garantito risparmi per 600.000 euro, insomma, attraverso il taglio di bonus, buoni pasti e quant'altro. Insomma, questi sono i tempi, che ci volete fare? Il baratto una volta si chiamava baratto, adesso invece si chiama swap. In questo caso Baby Swap, siamo a Palermo, l'iniziativa è davvero singolare e privata. Siamo in casa della signora Lia Alaimo in piazza, non me lo ricordo più, me lo sono perso, insomma a casa sua, adesso però bisognerebbe ritrovarlo l'indirizzo, piazza Mameli, eccolo qua, la notizia di Repubblica.it. La signora che cosa fa? 2 giorni alla settimana, il martedì e il giovedì, apre le porte di casa sua a tutte le signore che hanno i vestitini e i completini dei bambini, le cose da riciclare che non vogliono buttare via e che si possono scambiare gratuitamente. Insomma, va sempre più di moda. Anche questa notizia ve la volevamo segnalare nella sua anche inezia, però insomma è significativa a Palermo. Questa è una bella notizia invece, l'ultima che vi diamo prima di cominciare. Purtroppo siamo per ora solo in America. L'Università della California a Los Angeles ha brevettato un kit portatile contro le allergie, cioè uno se lo porta in giro e verifica i cibi che deve assaggiare al ristorante, a casa dell'amico, e ti dice immediatamente se è sensibile alla tua allergia. Una bella cosa per chi ha un'allergia, lo sapete, insomma si rischia ogni volta, no, di rimanere intossicati, anche cose più gravi, e questa è una bella cosa. Informatevi, magari voi che siete interessati all'argomento, chissà che non si possa già importare dall'America anche in Italia. Adesso dicevamo storie tutte legate a chi resiste, questa volta si comincia da chi resiste alla fatica e agli incidenti della vita. Correre, correre dà una gioia infinita, dà ancora più gioia se a correre è una donna che lo fa per i diritti delle altre donne e per dimostrare che dopo un male fisico, per esempio al cuore, si può continuare a correre, ci si può rialzare. E lei, Ivana Di Martino, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. L'ha fatto per 21 volte in 21 città diverse, in questi giorni ha corso 21 volte una mezza maratona per portare avanti questo messaggio che adesso ci racconterà per bene. Ivana, prima di tutto, adesso che l'avventura insomma è terminata, puoi riposarti. Sì, sì, è stata... sì, mi mancherà tantissimo, però sì, adesso posso riposarmi. 21 maggio a dormire. Eh beh, certo, meritato. 21 tappe in 21 città per portare quale messaggio? Poi ci racconterai tutta la tua storia che è interessantissima. Sì. Dunque, è un messaggio molto semplice. Vorrei dire a tutte le donne che si può fare, che se hanno un sogno possono realizzarlo. Io sono una mamma di 3 figli, ho un lavoro part-time, sono assistente alla comunicazione di ragazzi e ragazze non udenti, ho una vita abbastanza intensa Eppure per me la corsa è gioia, corro da quando avevo 11 anni, purtroppo ho subito due interventi poi al cuore e poi ho purtroppo subito anche un'aggressione e quindi ho dovuto rialzarmi più di una volta e volevo realizzare un sogno, era quello di correre per tutta Italia e dire a tutte le donne che di avere coraggio, di non avere paura e di affrontare la vita con grinta che possiamo farcela. Insomma, la tua vita non è stata proprio gentile, insomma, con te, perché due operazioni al cuore superate e con un monitoraggio, tra l'altro, in queste gare, in queste corse che hai fatto, non gare, perché è diverso, sì, naturalmente, un monitoraggio continuo, proprio per un'attenzione che ci vuole naturalmente nel tuo caso, ma anche per dimostrare, inizialmente ti avevano detto che non potevi più correre. Sì, io avevo questa fortissima tachicardia, avevo tantissime strasistole al giorno, arrivavo a 20.000, quindi mi provocava tantissimi disturbi e questo dovuto, non si capisce ancora il motivo, sembra un virus, non si capisce il motivo per cui mi sia venuta questa cosa e quindi mi hanno fatto un'ablazione durata 6 ore, quindi abbastanza complessa e all'inizio mi avevano detto che non avrei più potuto correre. Quindi per me è un dispiacere enorme perché io corro da quando appunto avevo 11 anni e poi poco alla volta, grazie ai professionisti del Centro Cardiologico Monzio di Milano, mi hanno risollevato, mi hanno aiutato a poter comunque poi a correre di nuovo. Purtroppo poi ho dovuto chiudere anche il forame ovale perché mi provocava tantissimi mal di testa e il buchino nel cuore era troppo ampio e quindi mi hanno chiuso anche il forame e adesso sono come nuova. Beh, insomma, è meglio che nuova, perché vorrei vedere quanti riescono a correre 21 mezze maratone di seguito. È un'impresa straordinaria. Ivana Di Martino c'è riuscita. Adesso ci dobbiamo fermare un attimo per il traffico, poi continuiamo a parlare con te. Ti vogliamo anche chiedere com'è l'Italia, il nostro paese, visto con gli occhi di una persona che ha corso per strada, quindi ad altezza zero, incontrando tante persone. Traffico. Eccoci qua, di nuovo in compagnia di Ivana Di Martino, che ha corso 21 volte, 21 volte donna, è anche il nome del suo blog per i diritti delle donne e anche per dire che dopo, insomma, due operazioni al cuore ci si può rialzare e addirittura si può tornare a fare questi risultati straordinari. Partita da dove è arrivata dove, Ivana, intanto? Allora, sono partita da Milano con la City Marathon, facendo la staffetta, quindi 21 chilometri, io ho fatto praticamente 2 frazioni e mezzo. E poi sono arrivata sempre a Milano, partendo però da Monza. Ho fatto Monza-Milano, dalla mia vecchia società sportiva fino alla nuova, che è la Canottieri Milano. Passando attraverso una serie di tappe intermedie, e che cosa, insomma, qual è stata l'accoglienza? Ogni tappa è stata gestita, organizzata da qualcuno, persone, associazioni, singole. Mi dicevi che c'è stata molta solidarietà intorno a questa iniziativa, che tra l'altro, diciamo anche questo, nasce anche in collaborazione con l'associazione Onlus Doppia Difesa di Giulia Bongiorno e di Michelle Hunziker, no, per le donne, perché insomma, sì, si continua purtroppo a registrare con la cronaca che le donne subiscono aggressioni, subiscono violenze. Sì, purtroppo sì, io purtroppo ne ho avute due di aggressioni, una diciamo più difficile da superare, che l'ho subita correndo alle 3 del pomeriggio, quindi anche in un orario in cui normalmente non si dovrebbe avere paura, eppure vabbè, mi è successo, però sono riuscita a rialzarmi e quindi ho voluto sostenere l'associazione Doppia Difesa per questo motivo, perché veramente la violenza che succede, soprattutto è una cronaca continua, ogni giorno c'è sul giornale qualcosa di brutto che è successo appunto a delle donne, quindi ho voluto assolutamente sostenere questa associazione contro la violenza sulle donne. Ed è un po' tutta una storia diciamo a due facce, no? Perché ci sono le difficoltà, come abbiamo detto, nella vita, però poi la possibilità di rialzarsi. C'è per esempio un'Italia descritta attraverso la cronaca con fatti come questi, no? Di violenza alle donne, ma anche la crisi economica, politica, morale che stiamo vivendo. E poi magari invece si scopre, mi raccontavi tu prima di fare l'intervista, che invece c'è un paese straordinario, pieno di risorse, di solidarietà, di persone che ti hanno incontrata, positive, che hanno corso con te. Che tipo di incontri hai fatto in questi 20 giorni? Guarda, sono stati degli incontri meravigliosi. Ogni città mi ha dato un calore particolare. A sud, proprio ho incontrato delle persone disposte ad accompagnarmi ovunque le chiedessi di andare. Erano proprio, ho notato che volevano aiutare la persona, mi hanno chiesto degli autografi, come se fossi... Sei diventata un personaggio. Mi hanno accolto proprio come una regina. E soprattutto a Catanzaro c'era questa staffetta di 21 ragazzine che fanno atletica e ogni ragazzina mi ha accompagnato per un chilometro. Quindi è stata poi una grandissima festa con l'assessore dello sport alla fine. Erano in 100-150 persone che mi hanno accolto all'arrivo, quindi è stato meraviglioso. Poi c'è stata anche Palermo, bellissima, con l'associazione Libera di Don Ciotti. Quindi insomma, ognuna mi ha dato un calore particolare, veramente. Poi si sono aggregati tantissime persone. A me ha sorpreso molto il fatto che le persone prendessero giorni di ferie per poter correre con me. Quindi questo io li ringrazio tantissimo, è stata proprio una gioia perché mi hanno raccontato le loro vite, la loro esperienza. Quindi è stato un accumularsi di sensazioni, soprattutto anche all'Aquila ho corso con il fratello di una ragazza che purtroppo ha perso la vita nel sisma, che è una grandissima atleta, e è stato molto commovente. Alla fine ci siamo commossi tutti perché io ho trovato un paese distrutto, completamente distrutto, sembrava che avesse subito una guerra, ma recente, non 4 anni fa. Quindi è stato, per me mi ha colpito moltissimo, però ho incontrato tantissima gioia, tantissimo calore. Secondo me l'Italia ce la può fare. Insomma, ce la prendiamo anche noi, questo calore, questa gioia che tu ci hai raccontato. Questa era la storia. Grazie Ivana Di Martino, runner. Grazie che avete a sentito voi. 21 volte ha corso in 21 città la mezza maratona, per dimostrare tra l'altro che l'attività sportiva sui pazienti che hanno avuto effetti di cardiopatie si può ancora fare, anche per testimoniare insomma la solidarietà nei confronti delle donne. Questa era la storia di Ivana Di Martino. Adesso invece una storia di resistenza dalla crisi. Sono nutellati di deliri e code a colpi di tosse, e tu non piangi, non ridi, vivi come se niente fosse. C'è crisi dappertutto, dappertutto c'è crisi. Resistere alla crisi per le imprese è sempre più difficile, lo sappiamo, ce lo dicono tutte le cronache, ma c'è chi dà una mano a resistere contro la crisi, per esempio la CNA di Roma che ha dato vita ad un nuovo punto di informazione, insomma un call center, si può chiamare un numero verde con dietro però tante tante risposte, lo voglio dire subito forte e chiaro, 800 01 62 13, ripeto 800 01 62 13 è il numero verde che si può fare in provincia di Roma per avere una risposta alle tante domande che la crisi pone alle imprese. E noi abbiamo convocato il direttore della CNA di Roma, Lorenzo Tagliavanti. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno a lei. Eccoci qua. Allora, io ho detto un po' di cose, il resto lo lascio a lei, insomma, di spiegare questa iniziativa importante. La nostra è un'iniziativa straordinaria, perché questo è un momento straordinario. Se noi guardiamo la nostra città e la nostra regione, ci accorgiamo come soprattutto la piccola e piccolissima impresa in questo momento si trova in grande difficoltà. Ogni 6 mesi noi chiediamo ai nostri imprenditori come va, l'ultima volta quasi il 60% ci ha detto che il peggio della crisi deve ancora arrivare. Sì. 1 su 4 ci ha dichiarato di voler ridurre o di aver già ridotto il personale. Molti imprenditori che pure potrebbero fare investimenti non li fanno perché non vedono segnali di ripresa della nostra regione. Questi sono i numeri, ma dietro i numeri spesso c'è una persona, una famiglia, un piccolo imprenditore che non ha il capitale come forza, ma il suo saper fare e la sua tenacia. Voi vi siete quindi attivati per fare qualcosa di concreto, perché si parla molto, però poi chi aiuta un imprenditore che è in difficoltà? Allora, voi aiutate con dei servizi che offrite, vogliamo dire quali sono? Noi abbiamo i nostri servizi tradizionali che questa volta abbiamo orientato verso la crisi. Qual è il dramma del piccolo imprenditore? Fa quello che faceva qualche anno fa, soltanto che prima riusciva a pagare i fornitori, a pagare i dipendenti, ad avere un buon rapporto con la banca, ed ora non riesce più a farlo. Quindi si trova in una situazione quasi di impotenza, di solitudine, si trova solo di fronte alla crisi. Il numero verde significa attivare un'altra persona, che è un nostro responsabile, con quale si fa una prima chiacchierata su quali sono gli elementi di criticità che in quel momento l'imprenditore sta vivendo. A questa analisi seguono poi tre linee di intervento. La prima è quella di tipo finanziario, si vede se esistono problemi di natura finanziaria, se c'è da ristrutturare il credito magari con il sistema delle banche, quali sono le cause che hanno creato questa tensione finanziaria. Tramite l'esperienza dei nostri consorzi di garanzia fidi, noi abbiamo rapporti con il sistema bancario, quindi siamo in grado di accompagnare l'impresa in questa trattativa. Per risolvere questo problema importantissimo. Il secondo elemento è quello delle relazioni sindacali. Probabilmente l'imprenditore si troverà nelle condizioni di dover ridurre il proprio personale, di dover accedere agli ammortizzatori sociali, di dover riorganizzare la propria forza lavoro. Sbagliare in questi momenti significa, soprattutto per le piccole imprese, mettere addirittura in discussione l'esistenza stessa delle imprese. È un passaggio doloroso, a volte necessario, ma anche qui è importante che venga fatta secondo degli elementi, non presi dal panico, trovare le soluzioni giuste. E anche qui l'imprenditore potrà parlare con un nostro rappresentante esperto in materia. Il terzo elemento, che è quello per certi versi più drammatico in questo momento, è il rapporto con Equitalia, l'Agenzia delle Entrate, l'INPS e l'INAIL. L'esperienza ci dice che molto spesso quando un imprenditore si trova nelle condizioni di fare a volte anche un gesto disperato, in genere c'è sempre una busta di colore strano che è appena aperta, dove magari c'è un ente dello Stato, il quale magari giustamente, legittimamente però gli chiede cifre importanti, che in quel momento rappresentano la goccia che fa traboccare il vaso e che quindi mette in uno stato di prostrazione l'imprenditore. La CNA di Roma ha accordi con questi enti e quindi anche qui nella contrattazione con questi enti l'imprenditore si può avvalere di un affiancamento a difesa dei suoi diritti, ma anche per negoziare con questi enti modalità di rientro e approfondimenti rispetto alla loro posizione. Quindi sono tre elementi di criticità, ma la cosa più importante è questa: non lasciare soli gli imprenditori ad affrontare una situazione che è straordinaria e che a volte è di gran lunga superiore alle loro forze. Ricordiamolo questo numero verde, taglia avanti così. Il numero verde è 800 016 213. Insomma, è importante, avete sentito quante cose si possono fare, sono i servizi che offre la CNA, questa volta però c'è un pacchetto più mirato e si cerca proprio di scendere in campo per aiutare le imprese, grandi e piccole, spesso proprio quelle piccole hanno bisogno di questi servizi per uscire da questa situazione. E io ho letto i vostri numeri, sono impressionanti, perché voi dite 120.000 le imprese a rischio, 40.000 quelle a rischio chiusura, quindi poi insomma in provincia di Roma sappiamo l'importanza anche di questa città. Grazie per questo servizio che fate. Se in 20 secondi mi fa un telegramma per il prossimo governo per chiudere, così ci salutiamo e ci lasciamo con le sue parole. Il prossimo governo deve assolutamente immettere liquidità nel sistema, quindi il pagamento delle pubbliche amministrazioni, e deve dare certezza alle aree di crisi, quindi finanziare gli ammortizzatori sociali. Questa era l'iniziativa della CNA di Roma, l'avete sentita, grazie al direttore Lorenzo Tagliavanti per essere stato con noi. Adesso noi ci fermiamo, torniamo tra pochissimo. Eccoci qua, ben ritrovati, puntata oggi che casca tra, insomma, nel ponte tra il 1 maggio, festa dei lavoratori, e il 25 aprile, passato da due giorni, la festa della liberazione. Abbiamo detto una puntata dedicata a tutti quelli che resistono. I nostri contatti: si può fare Radio 24 su Facebook, siamo anche su Twitter, si può fare 24. E poi durante la settimana, non dimenticate la nostra segreteria telefonica 828 1212 per lasciare le vostre ricette, insomma, per salvare l'Italia in un minuto. Noi diciamo così. Adesso una storia che è la resistenza, pensate, ad un piano regolatore sbagliato. Sono i cittadini di Pra a Genova a resistere. Io ho detto un piano regolatore sbagliato, ma non è proprio così, la faccenda è ancora più complicata. C'era un piano di riqualifica di questo quartiere che partiva da anni fa con degli stanziamenti anche europei, poi piano piano si è capito che invece di fare un bel parco pubblico si stava facendo una strada a quattro corsie che passava proprio lì nel mezzo. Capite bene che insomma i cittadini di Pra, gli abitanti, se la sono presa un attimino. E noi abbiamo convocato gli animatori della manifestazione di qualche giorno fa, erano un migliaio a protestare contro questa cosa che adesso ci vanno a spiegare. Emanuele Strina, buongiorno intanto. Buongiorno. Del Comitato per Pra, un comitato, cioè, di cittadini che esiste a prescindere da questa faccenda che andiamo raccontando. Però, insomma, perché sabato siete andati, sabato scorso, a manifestare contro che cosa, Emanuele? Praticamente a noi hanno negli anni promesso di riqualificare la zona che c'è tra le nostre case e il porto container che ci hanno costruito davanti. Ci hanno detto la strada attuale, l'Aurelia, la renderemo più vivibile, la renderemo quasi un parco, l'andremo a sistemare in modo tale che praticamente fra le case e il porto sarà un continuo di viali alberati, parchi, di un cuscino verde che ridarà un po' di rispetto, diciamo, alla zona che è stata deturpata dall'arrivo del porto. Cioè, immagino, insomma, la felicità a questo annuncio, ti è che bello un parco, insomma, collegamenti, alberati, eccetera. Abbiamo avuto 5 anni di sogni. Di amministrazione che ci ha detto dovete stare tranquilli, sereni, qua a Pra sarà uno spettacolo dopo che avremo fatto questo lavoro. Cioè, c'era gente che veniva a comprare casa lì perché in previsione del parco magari l'idea poteva essere esserci. E invece poi a un certo punto che è successo? A un certo punto quest'estate noi riceviamo una telefonata da un conoscente, diciamo, che ci dice guardate che è saltato tutto il progetto che avevano presentato, che hanno millantato ed è caduto. Sembra che abbiano problemi di soldi, che abbiano sbagliato i conteggi dei soldi, quindi lo devono rivedere completamente. A quel punto noi siamo partiti e facendo un po' di domande ai politici del quartiere, del comune, per cercare di capire qual era la reale situazione. Avete capito che le intenzioni erano altre, non c'era più il parco ma c'era l'autostrada, la strada. Avrebbero fatto solo più una strada. A quel punto siamo riusciti a ottenere un incontro con il sindaco e con il capo della regione, in cui a quattro occhi ci si è detto ok, voi ci state dicendo che il progetto è completamente da rifare perché non più fattibile, ok, mettiamo la popolazione a conoscenza e facciamo sì che la popolazione possa partecipare alla riprogettazione di questa zona. No, io dico una cosa, perché magari chi ci ascolta dice vabbè, una strada, che cosa c'è di strada, una strada. Però capite che se vi dicono qua ci saranno dei parchi, delle strade che collegano il centro abitato col porto, con la zona portuale, e poi invece questa zona spariscono delle piazze e c'è solo una strada a quattro corsie, che ovviamente è una strada di grande scorrimento, Beh, insomma, uno che abita lì di fianco, tra l'altro la Liguria l'abbiamo attraversata tutti prima o poi ed è piena di questi attraversamenti, forse necessari per l'amor del cielo, però forse oggi che c'è più consapevolezza, più attenzione a tutto, si possono trovare delle soluzioni alternative che non vadano proprio contro ogni logica di buon senso, di vivibilità. Quindi voi giustamente, ma qual è stato il motivo che vi hanno detto in comune non si fa più il parco ma si fa l'autostrada? All'inizio ci hanno detto che era un motivo di soldi, perché avevano trovato amianto sotto il sedime ferroviario che loro avevano comprato da Trenitalia, 1,5 chilometri di sedime, quasi 2 milioni di euro. L'hanno dovuto acquistare con una certificazione, diciamo, fino a un tot di profondità in cui Trenitalia diceva che non c'era amianto. Loro hanno detto a quel punto, ma noi serve andare più a fondo, e l'abbiamo trovato. Allora, quando loro ci hanno detto abbiamo trovato l'amianto, parola magica in Italia per bloccare qualsiasi lavoro, gli abbiamo detto ok, dateci visibilità. Perché parola anche terrificante, l'amianto. Io capisco che voi il parco lo volete a tutti i costi, però se c'è l'amianto... E invece cosa vi hanno detto? E a quel punto l'amianto è passato in secondo piano, perché i valori in realtà non li hanno mai mostrati, hanno incominciato a dire che era un problema di traffico, per cui avevano commissionato degli studi di traffico a delle aziende di altre città ed era venuto fuori che c'era un traffico tale che richiedeva 4 corsie davanti a casa nostra. Al che noi abbiamo chiesto dateci visibilità degli studi di traffico. A quel punto hanno di nuovo cambiato, perché gli studi di traffico non sono mai arrivati. È decaduta anche questa ragione. E qual era l'ultima che sono arrivati? L'ultima ragione erano delle norme, delle leggi, sia a livello statale che a livello comunale, per cui era obbligatorio fare 4 corsie in quel punto lì. Perché secondo le norme era l'unico modo per poter rimettere mano a quella strada. Ma no, io non lo so, ci sarà sicuramente qualche tecnico ingegnere della materia, qualche assessore che ci potrà spiegare che la strada lì è indispensabile, però occhio e croce, guardandosi intorno con la quantità di strade che ci sono, e chi lo sa se tra 20 anni o 30 anni andremo ancora in auto come si va adesso, e qui sembra francamente tutto questo una follia, non si capisce quale sia la ragione. Vorrei però coinvolgere anche Alessia Marapodi, che è del comitato genitori dell'istituto comprensivo, cioè i genitori dei ragazzi che frequentano le scuole lì a Pra. Buongiorno, sì. Vorrei chiedere, insomma, anche a voi qual è il vostro punto di vista, cioè cosa dite alle autorità, insomma, perché per voi è tanto importante non avere questa strada e invece avere queste infrastrutture, questo verde, questi parchi dove far stare, credo, anche i bambini, no? Come ognuno. Noi siamo stati coinvolti appunto come genitori dei bambini che in un futuro dovranno vivere su questa strada, ovviamente. E una strada di scorrimento non ha quelle condizioni di sicurezza che noi invece auspichiamo per i nostri figli, tenendo conto che il progetto preliminare, quello che aveva vinto i 15 milioni di euro, invece prevedeva proprio degli accorgimenti tecnici che davano la centralità al pedone, zona 30, per cui uno spazio condiviso, soprattutto vicino alla palazzata, vicino alla strada, no? Vicino alle case, certo. Una zona protetta dove pedoni, ciclisti, automobili viaggiano in sicurezza. Quanta distanza ci sarebbe da questa strada prevista alle abitazioni, Alessia? Allora, la strada che vogliono fare oggi capita proprio sotto le case, perché comprenderebbe sia le 4 corsie, comprenderebbero sia l'odierna Aurelia che il sedime ferroviario. Ma quindi che distanza, per chi non conosce il posto? Pochi metri? 50 centimetri. Non so, proprio appiccicati, spazio, cioè le case appiccicate alla strada. Esatto, lo spazio di un marciapiede piccolo. Mentre nel progetto originario lo spostamento del traffico di passaggio sarebbe stato di 15 metri dalla palazzata, per cui creando marciapiede verati, pista ciclopedonale. Capite che tra 50 centimetri e 15 metri c'è la sua bella differenza. Tra l'altro, Alessia ricordava giustamente i 15 milioni di euro stanziati dall'Europa, dall'Unione Europea, per uno dei tanti progetti per la riqualifica di questa zona. Io vorrei sapere adesso in Europa, Emanuele Strina, so che voi volete andare avanti fino alla Corte Europea a fare dei ricorsi, perché dite giustamente, tra l'altro, qua ci sono dei soldi stanziati per fare una cosa e se ne fa un'altra. Ormai abbiamo solo più quella strada, nel senso che ci stiamo informando su quali sono le possibili strade ancora attuabili per bloccare il progetto. E sembra che l'ultima strada sia quella di sollevare il problema a livello europeo. C'è un ufficio dedicato a Bruxelles, fortunatamente gestito da degli italiani, che hanno proprio in carico quello di verificare se i fondi che vengono stanziati poi vanno a coprire l'effettivo progetto. Cioè, in questo caso no, in questo caso sembra lampante che non sia così. Insomma, esatto. Sarebbe interessante sentire anche il comune, l'amministrazione sicuramente, però noi abbiamo scelto di sentir voi perché ci interessava anche il cittadino che si organizza e che fa luce, fa chiarezza su queste cose qua, che poi condizionano la nostra vita molto più di grandi scelte politiche che magari vengono da Roma. Qua si parla di condizionare la vita di un quartiere. Quanti abitanti ci sono lì a Pra? Circa 20.000. E quindi ritrovarsi la strada a 50 centimetri dalle case con i bambini anziché il parco come promesso e come già finanziato, capite che insomma è una cosa che non va bene, è una follia. Noi staremo a vedere, vi auguriamo di andare avanti e soprattutto di averla vinta, perché mi sembra che le premesse ci siano tutte, eh? Se la gente si vuole informare, noi abbiamo un sito dove c'è anche tutti i video delle nostre a disposizione. Diamo il nome del sito: www.comitatoperpra.org. Ebbene, e insomma, saranno anche i video del sindaco che ha dato le sue risposte, del municipio che ha dato le sue risposte in merito al progetto, perché no, ormai per noi è rendere pubblico sia il botta e risposta che il come sta andando la situazione. Ormai così si fa tutto in diretta streaming, quindi anche il vostro prossimo incontro col sindaco e con Burlando lo farete online. Per forza, insomma, sarà un modo per incastrarli. Insomma, avete capito, cari amici ascoltatori che ci state ascoltando, se anche voi avete vicino a casa vostra il progetto di una strada che vi passa sopra, sotto, una galleria, un ponte, qualcosa di però di sbagliato, insomma, che va contro anche il buon senso, sappiate che si può fare, ci si può organizzare, si può resistere come stanno facendo questi cittadini di Pra, che andranno avanti fino a ricorrere in sede europea. Auguri a loro e alla loro iniziativa. Adesso ci fermiamo proprio per il traffico. State più attenti, perché ogni cosa è scritta. E se si girano gli eserciti e spariscono gli eroi, se la guerra poi adesso cominciamo a farla noi, non sorridete, gli spari sopra sono per voi. E questa invece è una storia di resistenza al contrario, perché in base a una recente legge gli enti pubblici, le pubbliche amministrazioni dovrebbero pubblicare tutte le spese sopra i 1.000 euro, dovrebbe essere tutto rendicontato, la liberazione dei dati della pubblica amministrazione, tutto online, perché così deve essere, ma gli enti pubblici fanno resistenza e quindi tutto questo non si riesce ad avere. Contro questo si sta muovendo l'associazione Agora Digitale e noi abbiamo convocato Alberto Stornelli. Buongiorno Alberto. Buongiorno a voi. Uno degli animatori dell'iniziativa L'Era della Trasparenza, un progetto online nel quale insomma si va proprio a mettere il dito nella piaga, no? Alberto, che sì, cosa fate voi esattamente? Ma diciamo che è una storia di resistenza al contrario, ma anche noi comunque resistete. Siamo in campo la nostra di resistenza. Perché cercate con questa mappa virtuale dell'Italia di segnalare tutti i posti dove questa cosa che si dovrebbe fare non si fa. Partiamo da questa norma di legge, no? Ricordacela. Sì, allora, dal primo di gennaio, per un articolo inserito nel decreto sviluppo, è previsto che le amministrazioni pubblicano, appunto, come hai ben introdotto, tutti i dati di spesa superiori a 1.000 euro. Questo significa che insomma verrebbe attuata una trasparenza radicale. Appunto, notevole, insomma, a cui gli enti pubblici non sono molto abituati, Alberto, mi sa. Vabbè, direi. Noi abbiamo quindi, nella settimana dal 21 al 28 di gennaio, abbiamo organizzato una prima analisi, un monitoraggio collaborativo che abbiamo chiamato la settimana della trasparenza, appunto, sì, nella quale abbiamo cercato di analizzare quali degli enti italiani fosse adempiente a questa norma. Inutile dire che purtroppo il risultato non è stato dei più esaltanti, ma comunque non abbiamo di certo mollato. Qual è stato però, ricordacelo, visto che noi non c'eravamo, stati, il risultato? Abbiamo fatto un monitoraggio di 1.000 amministrazioni sì, del territorio italiano circa, e i risultati sono stati riportati in un report liberamente sì, scaricabile dal sito eradellatrasparenza.it, appunto, e la media delle dei risultati appunto è una mappa che si vede in home page sul sito, per la quale secondo un'aggregazione per province ci sono sostanzialmente più del 75% delle province ha una media di inadempienza. Cioè quindi nei tre quarti dei casi non c'è stata non c'è stato il rispetto di questa legge sulla trasparenza. Quindi insomma praticamente possiamo dire con un'espressione così tranquilla che le amministrazioni se ne fregano, se ne sbattono, se ne fottono. Questo è il dato del mese di gennaio, però attenzione perché poi magari si è messo in moto un processo più virtuoso, speriamo. Esattamente, sì. E noi stiamo lavorando appunto in questo ambito per far sì che le amministrazioni si adeguino al più presto. Cioè voi fate un po' da cane da guardia con questo progetto online, insomma è una bella idea, ce ne sono altri in altri campi, nel campo dell'evasione fiscale. Voi avete presidiato questo terreno e avete detto aspetta che veniamo a controllarvi, e siccome però il vostro lavoro, chi va sul sito se ne accorge, insomma, l'era della trasparenza.org non è un lavoro semplice, ci sono un sacco di volontari che fino ad ora hanno aderito. Ecco. E questa è anche diciamo la forza di questo movimento, perché appunto abbiamo visto che in questa battaglia di resistenza non siamo soli. Ma siamo stati capaci di aggregare nella settimana appunto che dicevo, siamo stati capaci di aggregare 364 persone. Che non è poco, per mettere appunto questa prima mappatura a gennaio. Non è poco se si considera che comunque il loro contributo è stato attivo, non si chiedeva un click o un sostanziale. Cioè dovevano andare sui siti delle loro amministrazioni, verificare se c'era, cosa c'era e poi fare l'aggiornamento. Tramite un form a disposizione sul sito. Ma questo si può ancora fare adesso? Cioè l'aggiornamento è dinamico oppure la fotografia è a quella settimana? L'aggiornamento è dinamico, ma noi abbiamo sospeso diciamo monitoraggio a quella settimana, lo abbiamo limitato a quella settimana perché abbiamo pensato ad una seconda fase dell'era della trasparenza, che è quella che stiamo finanziando proprio in questi momenti, in questi giorni, fino al 28 di aprile, ovvero una piattaforma che vedrà la sua seconda fase in una più estesa versione, dove al di là del monitoraggio si passa anche all'aggregazione del dato. Quindi Che fate un lavoro più approfondito. Aggregazione in che senso, molto Alberto? Più approfondito, però sicuramente alla nostra portata, perché abbiamo già dei dati e abbiamo dei DB che li contengono, per i quali appunto possiamo già fornire delle prime lavorazioni. E alla aggregazione ce le vuoi fornire? Visualizzazione delle spese, visualizzazione delle spese per tema, per regione, per provincia, per singola categoria di spesa. E questo è il progetto della piattaforma Ventura che stiamo preparando. E che quindi alla quale chiedete in qualche modo, insomma, a chi vi sostiene, a chi ci crede, darvi una mano attraverso un progetto di finanziamento, anche questo. Esattamente. Tramite la piattaforma. Un microfinanziamento per chi crede in questo progetto di trasparenza. Ripetiamo, si tratta di monitorare le amministrazioni, gli enti pubblici che si adeguano o no a questa norma di legge che dal 1 gennaio prevede la pubblicazione delle spese sopra i 1.000 euro, quindi per sapere proprio tutto quello che viene fatto. Sì, in una pubblica amministrazione le spese sopra i 1.000 euro sono sostanzialmente quasi tutte, sì, beh certo. Ma una cosa, Alberto, diciamo, no? Perché io ho qui davanti a me la mappa, c'è molto rosso, c'è anche un po' di verde. Anche qualche provincia virtuosa. Ecco, vogliamo anche dare atto a chi è virtuoso, perché sennò qua parliamo sempre solo che tutto va a scatafascio, invece non è così, anzi, è proprio quello che ci interessa a noi. Magari qualcuno si arrabbierà perché, che ne so, a Vicenza fanno schifo e invece dove vanno bene? Ho detto Vicenza per dire, dov'è che vanno bene, Alberto? Sì, ecco, guarda, hai fatto un esempio calzante, perché in realtà Vicenza è uno dei, nell'aggregazione provinciale è risultata una delle migliori. Delle ecco, provinciali. Ha sbagliato. Gli 11 enti verificati, 9 sono perfettamente conformi alla regola, e quindi... Tra queste Vicenza, quindi Vicenza si comporta bene. Altre perfetto. Province limitrofe a Vicenza sono Padova e Treviso, sì. Che risultano appunto conformi, quindi il nord-est diciamo a... Applauso al nord-est, bravi, se lo beccano tutto, ci fa piacere, poi? Sì, poi c'è la provincia di Pistoia, la provincia di Ravenna e la provincia di Asti anche. Che risultano appunto sempre... Anche in Sardegna vedo che c'è una macchia verde scuro? Es- Esatto, è la provincia di Nuoro, sì. Ecco, bravi. E poi c'è... Questi sono dati però che ci tengo a sottolineare, sì, di aggregazione appunto provinciale su un limitato numero di enti di casa. Quindi non è che tutti lì sono in regola, diciamo che c'è una preponderanza. Quelli da noi appunto, sì, visionati erano superano abbondantemente la media. La media, e quindi si meritano, diciamo, il semaforo verde. Sì, poi c'è un'area, diciamo, nella zona del Friuli, qualcosa del Piemonte e un po' di centro Italia, che è verde chiara, e questa cos'è? Una, diciamo, un'area di... Sì, c'è la provincia dell'Aquila, e c'è la provincia di Perugia, che anche loro hanno degli indici accettabili. Discreti. Ecco. Il resto è un rosso profondo, e proprio lì è dove per ora se ne sono fregati completamente di fare questa cosa qua. Magari non avranno gli strumenti online, perché non è detto che per tutti sia facile, no? Fare questo passaggio. È un passaggio anche tecnologicamente impegnativo per le amministrazioni, oppure sono tutte scuse? Assolutamente, perché il decreto appunto prevede anche non solo la pubblicazione, ma anche il rispetto di alcune forme. Come sempre, l'idea è buona, poi ci complichiamo la vita da soli. Ma in questo caso però è motivato, perché è motivato. Il formato per il quale appunto si richiede la pubblicazione, ovvero gli open data, è un formato che consente una forte aggregazione, una forte esportabilità del dato, così che appunto si possa consentire a team di sviluppatori come il nostro di prendere questi dati e di farci davvero qualcosa di molto utile, perché possono essere più lavorabili e più utilizzabili per aggregazioni esterne alla pubblica amministrazione. E questa è la piccola rivoluzione che ha introdotto questo articolo che appunto abbiamo menzionato, quello del decreto trasparenza. Alberto, noi ti facciamo in bocca al lupo a te e al team, insomma, di sviluppatori, di volontari che si sono occupati di questa cosa qua, all'era della trasparenza.it, il sito. Mi pare che abbiamo ricordato tutto, no? Anche chi vuole aderire e dare una mano va sul sito e può fare un piccolo finanziamento, no? È così. Sì, c'è la possibilità di fare un piccolo finanziamento, ma anche di candidarsi come volontari e sostenere appunto anche senza economicamente, ma con le proprie risorse. Cari amici, voi pignoli, quelli che insomma notate tutto, le spese, che state sempre attenti a tutto, siete perfetti per questo progetto, insomma il cane da guardia della pubblica amministrazione che deve pubblicare online tutte le spese. Grazie a te Alberto per essere stato con noi, è tutto anche per la puntata di oggi. Io ringrazio Franco Piantani e Andrea Piana che ha scritto con me il programma, Valeria Bernardi in regia. Noi ci risentiamo domani per un'altra puntata di Si può fare. Buona giornata, buon weekend a tutti.